Miksuje dla was DJ Lapiforce. Una tazza di vita va bene, si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cade di I love you. Palamercano, Mercano, Mercano, Mercano. Americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen cave di aiuti.

I'm so horny right now. I shouldn't have said all that. I'm not, like, wearing any underwear, so... You will. Demolition! Run. Take that.